Innamorati di Giovanni Capuano. Alessandro, sì. Ecco, diretta, Malpensa. La carica dei tifosi, no, è sempre sarà importante per noi, e sentire l'accoglienza così mi dà ancora molta più forza di fare bene. Arrivato alle 8:15 di questa mattina, era arrivato ieri sera a Milano in un albergo del pieno centro di Milano, è arrivato accompagnato dall'ufficio stampa e dagli uomini della sicurezza, colorato, vestito di rosso nero. Milan ce l'ho sempre avuto nel cuore, quindi ho sempre sperato di poterci tornare. È un ritorno a casa questo, Mario, per te? No, io abito a Brescia. Mario abita a Brescia, ma da questa mattina è di nuovo un giocatore del Milan. 800-24-00-24, Quadrado, Balotelli, Digne, forse Lavezzi. 6 giorni alla fine del mercato, benvenuti tutti, bentornati tutti nella giungla, e la giungla è ovviamente la giungla della Serie A. Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Giovanni Melchione in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Niccolò Ceccarini direttamente dagli studi di Calciomercato Premium. Ciao Niccolò. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Mattinata dal medico, poi le firme, le foto, magari qualche parola, anche se le prime le abbiamo già sentite di Balotelli, poi via verso Milanello e Vinovo. Quadrado, Balotelli, sono due storie, se vogliamo, in parallelo, due storie di due tra i peggiori investimenti della Premier degli ultimi anni, no? Certo, no, sono d'accordo. Sinceramente, diciamo, questa notizia di Balotelli, devo dirti la verità, ci ha fatto riempire, diciamo, anche le serate di mercato. E credo che Mario, insomma, voglio dire, abbia veramente una grande possibilità adesso di riscattare tutto se stesso. Vediamo cosa dirà poi nella presentazione ufficiale. Io sono molto curioso, ti dico la verità. Io sono curioso anche di vedere se ci sarà una presentazione ufficiale, perché pare che la linea scelta sia quella proprio low profile. La domanda che si stanno facendo tutti i tifosi del Milan oggi, quelli contrari a Balotelli, sono la stragrande maggioranza, quelli favorevoli, e noi da due giorni li stiamo cercando. 800-24-00-24, se c'è un tifoso del Milan contento per il ritorno di Balotelli, lo ospitiamo volentieri in diretta. 800-24-00-24, ma la domanda che tutti si fanno è se Balotelli davvero definitivamente esclude Ibra. Guarda, io devo dirti la verità, considerato quello che ho visto in quest'ultimo calciomercato e vedendo anche quello che sta accadendo, io mi lascio sempre una piccola porta aperta, ma non perché comunque sia, diciamo, tecnicamente in questo momento si possa fare l'operazione, e credo che il Milan là davanti, insomma, di giocatori ne abbia abbastanza. È vero che si è fortunato Niang, secondo me Matri andrà via, c'è l'ipotesi o Sassuolo o Lazio per lui, per cui da questo punto di vista, insomma, alla fine a livello numerico ci siamo. Però questo è un mercato strano, la logica mi direbbe che se arriva Balotelli a questo punto si chiude la porta per Ibra. L'esperienza del calciomercato mi fa pensare che i 3 giorni del Condor di Galliani ancora non sono arrivati. Allora io voglio capire, e voglio cercare di capire, se davvero i 3 giorni del Condor di Galliani sono stati anticipati in questa sessione di mercato, oppure mi devo aspettare qualcosa di sorprendente negli ultimi 3 giorni. Per cui io ti dico, non è una risposta da 0-0, ma la mano sul fuoco io non ce la metto. E Quadrado esclude Draxler? Domanda no. Che invece si fanno gli juventini. No, secondo me no. Quadrado è un'opportunità a sé stante, secondo me. Era un'opportunità che Marotta ha sempre vagliato, ha sempre detto che comunque se ci fosse stata la possibilità lui, Quadrado, l'avrebbe preso anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. Stavolta è arrivato con la formula del prestito oneroso a 1,5. Io l'ho definita un'opportunità di mercato, perché, voglio dire, parliamoci chiaro e tondo, non possiamo pensare che Quadrado esclude Draxler e che alla fine la Juventus resterà così. Secondo me no, Cuadrado è un'opportunità offensiva in più, e credo che allora a questo punto, partendo Zaza, se Zaza va, resta Llorente, e io mi aspetto comunque sia il Draxler o la mezzala di turno ugualmente alla Juve. Sì, parabola di Zaza clamorosa, da sì, investimento da 15-18 milioni di euro nel mese di giugno a esubero. Non so se su scelta di Allegri o perché semplicemente non sono arrivate le offerte per Llorente, ma comunque tema credo da approfondire a fine stagione, soprattutto se davvero Zaza dovesse andare in Premier in prestito. Certo, certo, sì, no, non me l'aspettavo nemmeno io questa cosa di Zaza, anche perché la Juventus ha speso 15 milioni di euro, doveva essere lui in sostanza, no, l'uomo pronto a dare il primo cambio all'attaccante titolare, in questo caso a Mandzukic, e poi evidentemente secondo me che è cambiata un po' la strategia. Forse Allegri, come dici tu, non lo ha visto prontissimo per fare questo ruolo. Forse l'evento sta pensato che era meglio farlo andare a giocare con più continuità. Forse, e anche questa è un'altra spiegazione plausibile, per Llorente la Juventus vuole soldi, soldi veri, e probabilmente forse nessuno gli ha offerto i soldi che la Juventus vuole per Llorente. E poi c'è la Vezzi, che è la notizia di giornata. Questa mattina a Milano, un'oretta d'incontro tra il DS Ausilio e il procuratore del giocatore, che alla fine ha detto: Ausilio è un amico di vecchia data, ora dipende dall'offerta, il PSG vuole i soldi per il cartellino, c'è la questione dell'ingaggio, sì, ma sarebbe ora che il Pocio tornasse in Italia, vediamo, nulla è impossibile. Io non ho capito se è una suggestione, una trattativa di mercato o un modo per mettere fretta al Wolfsburg. Ma guarda, io devo dirti la verità, io sono convinto di una cosa, che Mancini ha chiesto due giocatori offensivi. Io ci metterei anche come terza possibilità offensiva, terza, quarta possibilità offensiva, Lamela e anche Borini. Cioè io credo questo, che alla fine due giocatori, due attaccanti l'Inter prenderà. Io sono convinto che Mancini è quasi sicuro di avere Perisic e vorrebbe chiaramente avere un giocatore come Lavezzi, perché comunque la trattativa con Lavezzi è una trattativa vera. Poi bisogna vedere quanti soldi devi mettere sul piatto della bilancia, perché per il Wolfsburg sono 20. Per quanto riguarda Lavezzi, comunque sia, loro chiedono 10, anche se l'Inter spererebbe di fare un'operazione da 5-6 milioni. E quindi vediamo, secondo me è più facile che arrivi uno tra Perisic e Lavezzi, mettendoci anche Lamela, e poi magari diciamo una soluzione più last minute che potrebbe essere Borini. Però secondo me non si fermano qui, perché Mancini gli ha chiesto un terzino sinistro e secondo me alla fine, all'ultimo giorno, prende anche Melo. Sì, tanto mancano sei giorni, sei, sì, 4, 5, 6 acquisti in sei giorni in questo mercato si possono anche fare. Poi c'è la Roma, oggi sì, è sbarcato Digne, l'abbiamo detto, Garcia chiede un centrale, il club da quello che si legge non è rimasto soddisfattissimo del fatto che Garcia la richiesta l'abbia fatta in diretta TV. Mi pare che si farà qualcosa per accontentarlo, ma i rapporti a Roma non sono idilliaci. Sì, diciamo che la situazione è un po' delicata lì, perché c'era stato un po' di frizione dopo il mercato di gennaio scorso tra Sabatini e Rudy Garcia, poi questa frizione, diciamo così, è stata un po' allentata. Adesso mi sembra che forse anche in virtù del pareggio, che secondo me non è una tragedia con il Verona, adesso siano tornati fuori un po' tutti i problemi. Io credo che con Digne abbiano sistemato la fascia sinistra, penso che loro stiano valutando davvero questa opportunità di Juan Jesus. Anche se poi bisogna vedere qual è la richiesta effettiva dell'Inter per Juan Jesus, perché non so quanto insomma la Roma possa spendere o voglia spendere almeno 10 milioni di euro per Juan Jesus, perché credo che si vada su queste cifre. Cifre a cui l'Inter porterebbe credo Juan Jesus in macchina a Roma, visto il rendimento e anche il rapporto del difensore con i tifosi. Chiedono, scrivendo al 349-238-6666, che è l'altro contatto, se volete intervenire in diretta con un SMS, qualcosa sulla storia di Montolivo, questo triangolo Montolivo-Juventus-Milan. Ma guarda, la storia di Montolivo è che secondo me il giocatore, se arriva un'offerta, parte dal Milan. Io credo che si siano mossi i suoi agenti trovando, non ti dico un principio d'accordo, ma quantomeno diciamo un favorevole consenso da parte della Juventus, che però ha trovato la favorevole freddezza da parte del Milan appena il Milan ha saputo che c'era la Juventus che poteva essere interessata a Montolivo. Per cui la situazione, pesano i ricordi di Davids, di Pirlo e di tanti scambi del passato. È diventato, come dire, dal favorevole consenso all'eventualità di una partenza per un tot di soldi a diciamo una freddezza relativa alla squadra che era dietro Montolivo, quantomeno che aveva fatto un sondaggio per sapere di Riccardo Montolivo, in questo caso la Juve. Grazie Nicolò. Un abbraccio a voi, buona giornata, ciao. Grazie a Niccolò Ceccarini, direttamente dagli studi calciomercato di Mediaset Premium. 800 24 00 24. Cerchiamo soprattutto tifosi del Milan favorevoli al ritorno di Balotelli. Non valgono gli juventini, come quelli che stanno scrivendo al 349-238-6666, o gli interisti, o tutti quelli delle altre squadre. No, noi vogliamo almeno un tifoso milanista ad hoc che ci dica: io sono contento del ritorno di Balotelli. Traffico. Secondo me non capisci di calcio. Tutti convocati. Tutti convocati. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. Quanto pensi ci vorrà per essere pronto per scendere in campo? Un pochino di preparazione, magari anche capire bene gli schemi del mister. A che punto ti senti, diciamo, di condizione anche? No, fisicamente sto anche abbastanza bene, devo soltanto allenarmi con la squadra adesso. Le motivazioni di quest'anno, la maglia rossonera, l'anno anche dell'europeo, ci sono delle motivazioni importanti per te? No, sicuramente ne ho tante, però non ho tanta voglia di parlare, devo lavorare, basta. Ecco, quando il 20 agosto il Milan ti saluta e tu ricambi dicendo che andavi via con tristezza, ti immaginavi di ritornare al Milan? Sì. Ecco, da che cosa nasce questa tua idea? No, perché il Milan ce l'ho sempre avuto nel cuore, quindi ho sempre sperato di poterci tornare. Ritorno a casa questo, Mario, per te? No, io abito a Brescia. Senti, vorresti chiudere, è una cosa forse esagerata, mancano tanti anni, la carriera con la maglia del tuo cuore, cioè la carriera del Milan. Questo può essere un tuo obiettivo? Ma devo cominciare a lavorare da oggi e fare un buon anno, poi pensiamo di man mano in mano. Grazie. Mihajlovic che ti ha detto. Grande Mario! Perché si cerca come noi. Così parlò questa mattina Balotelli versione minimal, definiamola così. Furio Fedele, Corriere dello Sport, ciao. Ciao, buongiorno. Ecco. Niente proclami, voglia di lavorare, cresta bassa o allisciata, come mi ha corretto qualche tifoso del Milan su Twitter. Cioè la cresta c'è, ma l'ha abbassata, poi vedremo se la taglia. Sì, è meglio che la tagli, mi sembra di aver intuito che deve tagliarla. Così mi sembra di aver capito che le indicazioni da casa Milan e soprattutto da Arcore siano queste. Che impressione ti ha fatto questa mattina? Indifferente. Non sono un sentimentale, non credo nei ritorni. Ti cito tre palloni d'oro: Gullit, Shevchenko e Kakà, che sono tornati al Milan dopo aver stravinto tutto e dopo essere andati via dal Milan per loro volontà. Poi non hanno vinto niente e non hanno fatto vincere niente al Milan. Non lo so, vediamo, sai, qui le chiacchiere stanno a zero quest'anno dopo un ottavo e un decimo posto. Una cosa giusta l'ha detta, deve pensare a lavorare ed è giusto anche quello che ha detto l'altra sera la Di Galiani, l'ultimissimo treno che può prendere. Poi il problema è suo, mi lascia indifferente il ritorno di Balotelli. Se riuscirà a segnare 12 gol in 13 partite, vedremo se si potrà incominciare a discutere. Questo è il Milan. Il Milan non è un campeggio dove puoi venire a mettere la tenda, a fare le vacanze, capisci? Sto parlando non di Balotelli, in generale. E vediamo, quest'anno è molto serio, quest'anno è molto difficile, quest'anno bisogna veramente arrivare con dei risultati concreti, basta parole. Sì, è la prima volta Balotelli che si trova a dover risalire la corrente, nel senso che è la prima volta per lui, sempre abituato ad arrivare accolto come un idolo, come l'uomo della provvidenza. Io credo che questo non possa che fargli bene. Tante volte in passato abbiamo detto l'errore con Balotelli è che gli si carica immediatamente la responsabilità di tutto sulle spalle ed evidentemente quella cosa lì lui non la regge. Ma lui è un campione, lui sicuramente dal punto di vista calcistico è fenomenale, ha segnato gol incredibili, ne ha fatti anche con la nazionale. Lui da un punto di vista proprio squisitamente morfologico calcistico, è un grande campione, è un grande giocatore, e poi deve dimostrare tante tante altre cose, però sai, non lo so, siamo sempre qui a ci sono tanti commenti, tante belle parole, tante presentazioni. Con la Fiorentina Milan ha giocato una pessima partita sotto tutti i punti di vista, il Milan è a 0 punti, devi sperare di battere l'Empoli per arrivare probabilmente al derby a -3 se va tutto bene. Se perdi il derby sei a -6, e cosa facciamo? E sei alla terza giornata. Io sai, sono molto pragmatico, te l'ho detto, sono poco sentimentale, anzi zero sentimenti, con cui non combini nulla, soprattutto nel calcio, e voglio, secondo me è giusto pensare ai risultati, non alle parole, a tutte queste cose. Sì, intanto primo effetto Balotelli l'ha ottenuto su Mihajlovic, che è uscito male onestamente dalla prima notte di campionato, ma per 2 giorni si è parlato solo di Balotelli, cancellando dalle pagine dei giornali anche critiche che magari potevano essere rivolte alla gestione, ad alcune scelte. Sì. In questo senso ha fatto un favore Balotelli, almeno sì, dal punto di vista della tempistica. No, dal punto di vista di mediatico sicuramente, però sai, in realtà poi di apprezzamenti non molto positivi ce ne sono stati fra casa Milan ed Arcore dopo la partita contro la Fiorentina. Alle 18 di nuovo tutti in campo dopo una giornata e mezza di riflessione a tutti i livelli, e devi cominciare a pensare ad allenarti in vista dell'Empoli. Non è che l'arrivo di Balotelli ha risolto tutti i problemi, speriamo non ne crei piuttosto. Il problema è che sicuramente Mihajlovic deve ripensare, deve ridisegnare il Milan per una partita già fondamentale come lo era quella contro la Fiorentina, deve sicuramente cambiare qualcosa sulla linea mediana, dovrà sostituire, non penso che sia un problema così insormontabile, Eli al centro della difesa perché sarà squalificato, verificherà oggi se Mexes, che aveva un problema al ginocchio, sarà operativo e abile, arruolabile proprio contro l'Empoli per fare coppia quasi certamente con Romagnoli. Sì, non credo che Balotelli, che non gioca una partita ufficiale dal 28 aprile, sia arruolabile per Empoli, per la partita con l'Empoli. Non dal primo minuto, certamente, il che rinvia il dilemma su chi esce tra Luiz Adriano e Bacca nel momento in cui Balotelli sarà invece pienamente utilizzabile, perché io a Balotelli che viene a fare solo la riserva credo poco. Qualche milanista favorevole lo troviamo, 349-238-6666, è contento Gianni da Milano, è contento Jacopo di 7 anni, figlio di Stefano, che ci ha scritto, allora salutiamo Jacopo di 7 anni. Ma poi chi esce tra Bacca e Luiz Adriano, Furio? Non lo so, non saprei dirtelo. Io non... Con Ibrahimovic potevi sperare di poter giocare con tutti e tre e avresti avuto un attacco devastante, e con Balotelli mi sembra di intuire che possa più essere sacrificato Bacca forse da un certo punto di vista, però non saprei, è un problema di Mihajlovic. Il fatto è che Balotelli probabilmente potrebbe essere pronto per il derby e poi vedremo, ma l'Empoli comincia a diventare veramente un ostacolo duro da superare, perché sei già in rimonta sull'Inter, sei già comunque in una fase di affanno, bisogna vedere come sta Balotelli. E poi attenzione, il mercato è ancora tutto da scoprire, perché poi in realtà al Milan non serviva Balotelli ma serve un centrocampista di qualità. Sì, in queste ore si parla anche di riavvicinamento a Witzel, trattativa sì, complicatissima. Sì, complicata, ma potrebbe esserci un'apertura. Mi sembra che ci sia stato un blocco per quanto riguarda l'arrivo di Soriano, e Witzel secondo me è un po' il pirlo dell'era moderna, a parte che è dotato di una fisicata imponente, 1,86 m per 81 kg, capace praticamente di giocare in qualsiasi parte del centrocampo, e soprattutto potrebbe fare il trequartista. Mi piace molto, non è che piace solo a me. Se poi c'è di Montolivo alla Juve, lo spazio si apre. Sempre se c'è di Montolivo alla Juve. Mi sembra che Montolivo in questo momento, purtroppo per lui, rischia di essere il vice De Jong, e se arriva Soriano anche il vice Soriano. Quindi Riccardo Montolivo ha bisogno di cambiare aria, ha bisogno di lasciare Milanello, a maggior ragione se lo rivuole Allegri. Allegri farebbe molto bene a riprenderselo in un momento così difficile per quanto riguarda appunto la Juve, che è fuori marchisio e ha bisogno comunque di un centrocampista di qualità, anche perché Montolivo nel Milan non giocherebbe probabilmente al posto di De Jong, quindi davanti alla difesa, quindi probabilmente Allegri, che conosce bene Montolivo, lo potrebbe valorizzare nuovamente. Quindi spazio per una trattativa in certo senso clamorosa ci sarebbe. Grazie Furio. Certo. A voi, a presto. Grazie a Furio Fedele, che poi la questione del ritorno di Balotelli non è solo una cosa di campo, di tattica, di tecnica, è anche qualcosa di mistico. Sentite il presidente Tavecchio ieri. Ma io credo che come cattolico abbiamo un concetto di redenzione e bisogna cercare di trovare e capire con un po' anche di compunzione se un uomo che ormai sembrava ai margini di un sistema sportivo possa capire che rientrando nel paese che l'ha adottato, gli ha dato la cittadinanza, possa avere delle gratificazioni. Io credo che sia un tentativo da fare. Noi siamo cattolici, insomma, gran parte siamo cattolici e quindi crediamo nella redenzione. 800 24 00 24, Mauro da Verona. Mauro. Sì, salve. Eccoci. Salve, senti, io sono tifoso milanista, sì, da 56 anni, cioè da quando ne avevo 3. E secondo me il Milan un giocatore come Balotelli non ce l'ha, tecnicamente parlando. Forte fisicamente, che ti può tenere occupati due uomini col tiro da fuori area, colpo di testa. Quindi, al di là di tutti gli attaccanti che ha il Milan, però un giocatore come Balotelli, ripeto, il Milan non ce l'ha. E Ibrahimovic e il nostro bravo allenatore, scusi, si è convinto Mihajlovic. Mihajlovic, scusi, riesce a sistemargli anche un attimo quelle cose magari che ha per la testa, non giusto? Sì, anche se questa è la scommessa che hanno fatto tutti convinti di avere la password per risolvere l'enigma. Era convinto Mancini, era convinto Mourinho, era convinto Rodgers, adesso è convinto Mihajlovic, poi in realtà un po' tutti, anche Prandelli era convinto di essere riuscito a toccare le corde giuste e poi un po' tutti sono rimasti scottati. Fabio da Treviso, Fabio. Sì, buongiorno. Buongiorno. In realtà ho bleffato con la sua segretaria, non sono così un grandissimo tifoso del Milan, ma un simpatizzante. Sì. Però sono tifoso di Mario, di Balotelli. Quindi contento del ritorno, pronto ad attendere la redenzione. Ma in realtà la redenzione non lo so, però sarà che questo coincide con il ritorno al calcio di Berlusconi alla fine, dopo una parentesi politica poco felice. Bah. E secondo me può essere un modo per riscattare anche un Milan che negli ultimi anni ovviamente ha fatto quello che abbiamo visto. E se la scommessa è vincente, è merito suo. Se poi non va in porto, diciamo, può dire ci ho provato e passa comunque per un buono alla fine. E secondo me Balotelli mi ha sempre fatto tenerezza. Un'altra possibilità io gliela darei. 25 anni non è proprio così vecchio, insomma. Sì, più che tenerezza, rabbia, perché uno con i suoi mezzi che abbiamo scoperto oramai da anni non dovrebbe fare tenerezza, dovrebbe essere quello che forse lo stesso Balotelli si immaginava di poter essere qualche anno fa, quando diceva un giorno io vincerò il pallone d'oro, e invece è successo quello che è successo. C'è tempo per Domenico? Sì, Domenico dalla provincia di Chieti. Domenico. Sì, salve. Eccoci. Buongiorno, grazie della convocazione. E niente, anch'io sono assolutamente tifoso milanista da sempre e favorevole al ritorno di Mario. Uno è sicuramente un affare da un punto di vista economico. Sì, però Domenico, relativo l'affare, nel senso che a me la cosa che colpisce di tutta questa operazione è ovvio, poi ti faccio concludere, è ovvio che arriva praticamente gratis, però il Milan non si riserva nessun diritto. Allora, poniamo che Balotelli fa una stagione straordinaria, a giugno il Milan ha fatto un favore al Liverpool, questo secondo me è anche un tema su cui ragionare. Prego Domenico. Beh, se fa una stagione straordinaria, però il favore l'ha fatto, se l'è fatto intanto per questa stagione, e dopodiché anche per il calcio italiano, considerando che veramente lì davanti non abbiamo assolutamente alternative, risettare Mario sarebbe una grande cosa. Poi è chiaro, nell'impresa ci hanno provato tanti, è anche vero che il problema, insomma, di Balotelli è stato quando sono state date le chiavi della squadra a lui e al momento non ne ha probabilmente ancora la maturità per poterlo fare. Speriamo in Mihajlovic. Io in tutto questo ricordo un'intervista di Federico Buffa che anche lui da tifoso milanista probabilmente aveva centrato il problema, cioè lasciamo perdere i social, lasciamo perdere anche quell'atteggiamento da bulletto. Tutte queste cose si possono anche in qualche modo incentivare per Mario, però l'importante è che quell'atteggiamento, lui ha il fisico da guerriero, deve fare il guerriero in campo, può fare anche il bullo, ma lo deve fare in campo. Tutto sommato anche Ibra non è sicuramente un simpatico, non è sicuramente no, un... No, però poi Ibra racconta chi ci ha lavorato, è un professionista poi dentro il campo d'allenamento assolutamente impeccabile, cosa che Balotelli... sinceramente, con tutto il bene che gli si può volere, in questi primi 6-7 anni della sua carriera non è stato. Anzi, c'è la borsa 800-24-0024. È come se avessi passato l'estate a sognarmi la Narci o la Canalis e mi ritrovo la signorina Silvani. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Sei giorni alla fine del mercato, un aggiornamento sull'Inter. Ecografia questa mattina per Mauro Icardi, uscito dopo un quarto d'ora della partita contro l'Atalanta, confermato il risentimento muscolare alla coscia destra. Per Brozovic confermata la distorsione alla caviglia destra, entrambi saranno valutati in vista della trasferta contro il Carpi. Ieri Tavecchio, ancora sulle norme che stanno per entrare, le norme finanziarie in Serie A e sul mercato che potrebbe cambiare nei prossimi anni. Noi intanto abbiamo messo delle regole che partiranno definitivamente l'anno 21 e quest'anno penso che non più di 6 o 7 squadre potrebbero avere la possibilità di giocare tenendo conto di quei presupposti. E poi dice questa cosa Tavecchio, sul fatto che potrebbero esserci problemi di ordine pubblico in caso di esclusione di grandi piazze. Quest'anno abbiamo detto d'intesa con tutte le componenti che è l'ultimo anno libero, l'anno 21 dovranno essere applicati i parametri. Si metta nei panni di una cura da cavallo come questa, se fosse applicata ci sarebbero stati problemi di ordine pubblico nel sistema sportivo italiano. Lei si immagina non iscrivere società di grandi città, quali problemi ci sarebbero emersi? Oh, io non so cosa ne pensa Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Ciao direttore. Ciao. Siamo ancora ai problemi di ordine pubblico. Non lo so. Io quando sento fare certi discorsi, per carità, purtroppo siamo in Italia e ogni tanto succedono delle cose che sono veramente fuori dall'ordinario e fuori dall'umana comprensione. Però mi sembra, insomma, che se noi non usiamo un metro diverso per gestire il nostro calcio, a un certo punto affrontando anche eventualmente dei problemi di ordine pubblico, noi da questo non ne usciamo. Dunque, ben vecchia cosa ha detto Tavecchio, che insomma, d'ora in avanti ci sarà bisogno di un rispetto assoluto del fair play finanziario, dei bilanci in ordine. Però questa è una piccola parte, e poi c'è tutto il resto ancora da fare, c'è la riforma dei campionati, insomma ci sono tante situazioni che vanno regolate. L'importante è cominciare, perché noi italiani siamo straordinari nei discorsi programmatici, poi nell'attuazione di questi discorsi e di questi programmi invece ogni tanto veniamo meno. Sì, siamo straordinari nel dire questo, siamo d'accordo, è l'ultimo anno, dall'anno prossimo cambierà tutto, poi spesso e volentieri quell'anno prossimo non arriva mai, però noi abbiamo fiducia che invece il calcio abbia davvero deciso di cambiare. Oggi fra i tanti giorni abbiamo detto il giorno di Quadrado, e allora ti faccio sentire una cosa, direttore. Che questo Mister X o questo trequartista è tutta l'estate che va avanti è diventata quasi un tormento assolutamente. Io credo che la società stia lavorando bene per quest'anno e per il futuro, perché dopo la Juventus deve lavorare anche per il futuro. Questa squadra, l'abbiamo detto più volte, manca ancora di un centrocampista in termini numerici, in termini di qualità. Il profilo può essere anche abbastanza duttile a secondo delle opportunità che si presenteranno. Non è facile trovare un giocatore da Juventus. Parla di trequartista proprio come un nodo importante o serve un centrocampista in senso generale? No, serve un giocatore con determinate caratteristiche che può giocare in diverse zone del campo. Oh, perché oltre a una grande occasione di mercato, io ho l'impressione che Cuadrado alla Juventus sia anche il delitto perfetto, e ho trovato molto interessante oggi Tutto Sport con l'analisi che dice: attenzione, si cambia. L'arrivo di Cuadrado porta Allegri ad abbandonare forse l'idea di modulo di Juventus che aveva in testa e a virare su una Juve diversa, il 3-5-2, il 4-3-3. Non so quanto d'accordo Allegri col club e viceversa o meno, direttore. Ti vedo molto lucido, guarda, e questo mi conforta alla fine dell'estate. Il discorso è molto chiaro. Allegri aveva chiesto alla società un trequartista. La società ha dato Allegri un esterno offensivo, quindi Allegri si deve adeguare a quelli che sono i progetti della società, non c'è altra chiave di lettura. Del resto, risentendo le frasi di Marotta, Marotta ha parlato: noi cerchiamo un centrocampista, non ha detto noi cerchiamo un trequartista. La parola trequartista è sempre stata detta da Allegri. La Juventus ha fatto una scelta diversa che indurrà, obbligherà Allegri a una scelta tattica diversa, perché con i giocatori che ha in questo momento Allegri deve per forza adottare o il 4-3-3 o il 3-5-2, cioè giocare come sta giocando non può pensare di avere mettere Cuadrado o Dybala trequartista. Direi che è un controsenso, già nella prima giornata ne abbiamo visti di controsensi nella Juventus, per cui direi che Allegri è stato obbligato a schierare una Juventus probabilmente diversa da quella che lui aveva in testa, e vedremo poi quale sarà il centrocampista, il vice Marchisio, perché in questo momento, una volta acquisito Cuadrado, l'obiettivo è il vice Marchisio, che arriverà per completare un organico che fino a qualche giorno fa era ancora incompleto. Sì, l'ipotesi Montolivo mi pare non entusiasmi i tifosi della Juventus. Ma sai, se uno vuole pensare positivo, pensa che anche Pirlo venne scaricato dal Milan, però parliamo di due profili di giocatori un po' diversi. Mi pare che in questo momento Montolivo non rientri nei piani del Milan. Se dovesse arrivare alla Juventus, come ha detto ieri Marotta, a 0 euro, sarebbe veramente una riserva a tenere in considerazione quando ci sono delle situazioni di emergenza. Non si può, almeno sulla carta, pensare di costruire un centrocampo la Juventus con Montolivo. In ogni caso, domenica ha dimostrato che il lavoro da fare per Allegri sarà lungo, che non è semplice, ma si sapeva del resto, sostituire Pirlo, Vidal, Tevez tutti insieme, c'è anche stato evidentemente qualche errore. Forse Bonucci si è fatto scappare quelle parole, c'è anche chi ci ha fatto il titolo, questo sarà un anno di transizione, forse è esagerato. Questa è una delle frasi che mi hanno colpito nell'immediato post partita, perché quando comunque un lottatore come Bonucci, un leader ormai dello spogliatoio come Bonucci, parla di anno di transizione, vuol dire che anche all'interno dello spogliatoio sta germogliando, sta prendendo corpo il germe che probabilmente questa stagione non potrà essere una stagione come quelle passate, ma sarà veramente una stagione di transizione. E sentirlo dire alla prima giornata di campionato dopo una sconfitta oggettivamente ha lasciato un po' tutti perplessi, però se questo è il mood che c'è all'interno dello spogliatoio, vuol dire che probabilmente chi vive tutti i giorni il campo si rende conto che la ricostruzione di una squadra, anche se fortissima come la Juventus, non può prescindere da determinate tempistiche, e quindi, tra l'altro, come anche ha detto Allegri, quest'anno ci vorrà un po' di pazienza. Sì, è cambiato tutto. Mi hai fatto venire in mente un parallelo invece con l'approccio, il mood, il sentimento in un altro anno che poteva essere di transizione, di ricostruzione. Agosto 2011, Conte parlava diversamente, altro che anno di transizione. 30 secondi per chiederti quanto pesa Roma-Juve di domenica in tutto questo ragionamento. Guarda, Roma-Juve è comunque la partita di questo campionato, perché per tutto quello che c'è stato nel recente passato sarebbe stata importantissima a prescindere. Così, con la Roma reduce da un pareggino a Verona e con la Juventus con questi problemi sconfitta dall'Udinese, assume, non ti dico un'importanza decisiva e determinante perché sarebbe stupido dirlo, però certamente ha una valenza persino superiore a quella che tutti gli potevano dare come gara di cartello della prima, della seconda giornata di campionato del girone di andata. Se la Juventus dovesse perdere a Roma si troverebbe a 0 punti con delle squadre a 6 punti e con la Roma avanti di 4. Insomma, qualche problema anche solo psicologico potrebbe essere. Sì, siamo al primo sliding door della stagione, vale anche ovviamente per la Roma. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie a Vittorio Reggio, direttore di Tutto Sport. Filippo da Udine, Giacomo da Parma. Cominciamo da Filippo. Filippo. Sì, volevo tornare Eccoci. Un po' sul discorso milanisti felici o infelici del rientro di Balotelli. Ma io trovo che sia un ottimo affare per il Milan, perché garantisce forse qualche abbonamento in più, aiuta a riempire sicuramente i palinsesti e i giornali, però francamente vabbè, spero di essere smentito e di vedere qualche sua bella giocata che poi ci renda tutti felici. Quanto sì, al fatto che lo aspettiamo servire, tutti, Filippo. Quanto al fatto che possa servire alla nazionale, Conte mi pare che si sia già espresso e non mi sembra uno che torna indietro. Però Conte ha lasciato aperta la porta a Balotelli nelle ultime occasioni in cui ha parlato, anche perché oggettivamente la nazionale è lì davanti a un problema, e ad esempio quello che è successo quest'estate a Zaza acuisce il problema, cioè ha il problema che mentre in altri reparti un po' di qualità c'è, davanti l'Italia ha assoluto bisogno di recuperare qualcosa, Balotelli, Pepito Rossi, perché così com'è oggi non è sufficiente. Giacomo da Parma, però lo facciamo dopo il traffico. Traffico. Di che cazzo stiamo parlando? Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Convocati. 800 24 00 24. Giacomo da Parma. Intanto c'è chi scrive: Marotta ha preso 2 esterni di qualità per accontentare Conte il prossimo anno. Ale da Imola. Io, se volessi fare una battuta, dico che ha preso Quadrado solo per fare un dispetto a Conte un anno dopo. Ma avrà ragione Ale da Imola. Giacomo da Parma. Ciao, buongiorno. Grazie Ciao. Per la convocazione. Prego. Io volevo solo prima dire una cosa sul collega di tifo che ha chiamato prima da Udine, dicendo che gli abbonamenti non credo che incrementeranno con l'arrivo di Balotelli, anzi piuttosto qualcuno lo straccerà. Però a parte quello, io sono molto contento perché non abbiamo un giocatore in rosa che sappia tirare i calci piazzati, non ce n'è uno, almeno lo mettiamo dentro per gli angoli, le punizioni, gli ultimi 20 minuti, insomma è un'occasione per lui per rilanciarsi, mi auguro che possa non farci rimpiangere questo. Sì, io di non mercato. Credo Giacomo che il progetto su Balotelli sia il progetto di un kicker, per prendere come esempio il football americano, però è vero che Balotelli, anche quando è stato nell'anno e mezzo in cui è stato al Milan, a parte i rigori, comunque spesso ha risolto delle partite con dei colpi così fuori dal contesto, e quindi potrebbe servire. Antonio da Chieti. Antonio, proviamo Luigi da Napoli. Luigi. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno. Io sono tifoso juventino. Vorrei dire che dopo aver visto un po' di approssimazione domenica in campo, un po' forse di presunzione da parte della dirigenza, per quanto riguarda il modulo, sento parlare con Quadrado di 3-5-2 o 4-3-3, ma il 4-4-2 sarebbe proprio da escludere, che nella Fiorentina l'ha fatto tante volte all'interno di centrocampo. Sì, però il 4-4-2 mi sembra che oggi non sia un modulo che vada per la maggiore, mi pare anche che non sia uno dei sistemi di gioco preferiti da Allegri in tutta la sua carriera. Quadrado porta a un modulo dove l'attaccante deve essere un attaccante esterno, c'è poco da fare, dove è vero che lui può anche fare il trequartista in alcune situazioni, però come diceva bene prima Oreggia, è evidente che c'è una scelta diversa da quella che forse aveva in testa Allegri. Tony dalla provincia di Olbia. Tony, buonasera, grazie per avermi convocato. Grazie a te, prego. Volevo partecipare appunto a questo sondaggio perché sono molto favorevole, anche perché si langueva un po', ci manca qualcosa. Penso che faremo un salto di qualità con questa rientri. Abbiamo perso Tony dalla provincia di Olbia. Tony? Non so se mi senti. Mi sì, senti? Prego. Dicevo, buonasera a tutti e grazie per avermi convocato. Dicevo che sono molto favorevole perché penso che faremo un salto di qualità, mancava un po' un mordente, capito? Sì, però mi sembra che il salto di qualità il Milan abbia cercato per tutta l'estate di farlo anche prima di questa cosa di Balotelli, abbia cercato di farlo con Bacca, con Luis Adriano, con Bertolacci, con tutte le altre scelte di mercato, magari con Witzel, se arriva Witzel, con Romagnoli in difesa. Questa di Balotelli è un'operazione fuori da questo contesto, ma poi è il campo che ci darà le risposte, così come sarà la pista a Monza a metà settembre, quando ci torneremo, che ci dirà se avremo trovato un punto di equilibrio tra Pirelli, Ferrari in tutta questa storia della guerra delle gomme. Things like that are not allowed to happen, full stop. If it happens 200 meters earlier, I'm not standing here now, I'm with 300 stuck in Urus, so I don't know what else needs to happen. Yeah. Cioè, secondo te noi buttiamo giù una strategia per vincere a ogni costo una gara mettendo a rischio la vita del pilota? No, non lo faremo mai. Frustrazioni per entrambi, dobbiamo capire meglio adesso se nel futuro dobbiamo limitare le quantità di giri che mettiamo sulle gomme. Possono capitare certi episodi, ovvio che quando capitano due volte in un Gran Premio qualche domanda te la fai. Qual è la vostra posizione per Monza? Non cambia, salvo se andiamo a Monza dove pensiamo che cercando di ridurre la quantità di pit stop l'stint fatto su ogni tendine di gomme diventa più lungo. Insomma, il caso gomme non accenna a sgonfiarsi, me la passate come battuta. Antonio Boselli, redazione Sky Sport Motori, ciao Antonio. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Non accenna a sgonfiarsi, no? Ma diciamo che sono state ore molto concitate con un Gran Premio, nel senso che dovete immaginare, insomma, Sebastian Vettel, oltre ad aver perso un podio, si stava conquistando con una gara fantastica, ha rischiato tanto e quindi nelle dichiarazioni è stato molto duro, si è creata questo confronto molto, molto forte con la Pirelli. Infatti adesso, insomma, a mente fredda bisogna ragionare e capire cosa si può fare. Ci sono stati degli errori di valutazione, perché comunque la Ferrari ha fatto una strategia in funzione delle informazioni che aveva, e le informazioni era che poteva fare almeno 40 giri con quel set di gomme. In realtà al 27esimo c'è stato lo scoppio. Poi se a questo aggiungiamo il fatto che c'era stato lo scoppio della gomma di rosa, anche se in quel caso il comunicato ufficiale parlava di un detrito che era tratto la gomma, comunque, come diceva bene, due casi, due episodi così simili e così clamorosi probabilmente necessitano una riflessione, e credo che si daranno un tavolo per trovare quantomeno la situazione di compromesso. È difficile, anzi direi impossibile, cambiare le gomme nella loro struttura, così come è impossibile o quantomeno molto difficile cambiare le regole. Bisogna probabilmente tornare un po' a una logica di consenso. Sì, serve comunque trovare un compromesso, anche perché a Monza si va velocissimi, si va ben oltre 350-360 km all'ora. Io non so se il tetto di giri da percorrere sia la soluzione giusta o se sia una soluzione che ingabbia ulteriormente la Formula 1. Esatto, hai esattamente centrato il punto, è un po' questa la materia, perché poi cosa succede? Che le scuderie, soprattutto quelle che sono più gentili con le gomme, come per esempio la Ferrari, poi può costruire, no, una stagione intera. Vi ricorderete per esempio del 2013 la Lotus, che ha conquistato delle vittorie proprio grazie a questa caratteristica di essere molto gentile sulle gomme, di poter fare delle spinte molto lunghe, delle parti di gara molto lunghe. Questo va un po' a limitare la libertà e anche la flessibilità nelle strategie. Però ecco, diciamo che va trovata una soluzione, perché Monza poi è una pista velocissima, certo non è così stressante sulle gomme come Spa, dove ci sono tante curve in appoggio, però veniamo da dei giorni molto, è stato molto chiaro, potevo non essere qui a raccontarvi quello che vi sto raccontando, e poi insomma anche con il decesso di Justin Wilson, che non c'entra niente con la Formula 1, pilota di IndyCar, ma con un detrito che è capitato. Sì, indica che gli sport di motore sono sempre sport pericolosi per definizione, bisogna stare attenti anche ai minimi particolari. La notizia la diamo: nella notte è morto Justin Wilson, pilota che era stato colpito da un detrito uscito da una macchina dopo un incidente in una gara in Pennsylvania di IndyCar. Se riusciamo a chiudere la telefonata con Antonio Boselli, volevo chiedergli l'ultima cosa invece su come affronterà Vettel il Gran Premio di Monza, perché evidentemente si è spaventato e in tanti dicono e scrivono attenzione, perché nella testa di questi campioni della velocità, se poi si insinua al tarlo del dubbio, può essere un problema che fa danni. Guarda, questo è verissimo, casi ce ne sono tanti, ma credo che sia un appuntamento talmente importante e talmente tanto lo aspetta Sebastian Vettel, che probabilmente si butterà tra le spalle. Così meticoloso e così preciso come lui, sicuramente vorrà delle spiegazioni e vorrà da parte del team e della Pirelli delle soluzioni, perché non si verificano più insomma incidenti come abbiamo visto a Spa. Ma il Gran Premio di Monza è una cosa importantissima per lui. Lui già è entrato nella famiglia Ferrari, è ormai diventato un punto di riferimento, l'ha ripetuto tante volte. Il Gran Premio di Monza sarà un'occasione importante, è importante anche che la Ferrari arrivi in un discreto stato di forma, queste Mercedes sembrano imbattibili, però sarebbe importante anche un podio per fargli gustare insomma quel podio fantastico, più bel podio che ci sia nel motorsport, con il fiume di gente, di tifosi della Rossa sotto di lui. Sì, e magari per dimenticare anche quella gomma scoppiata a 11 km dal traguardo di Spa. Grazie ad Antonio Boselli. Grazie a voi. Grazie ad Antonio Boselli. Siamo in chiusura? Siamo in chiusura. Noi ci ritroviamo domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani ci sarà anche Pierluigi Pardo da Leverkusen, perché domani è il grande giorno della Lazio e, se vogliamo, anche del calcio italiano, che tenta l'impresa di portare la terza squadra nei gironi di Champions League. È riuscita solo due volte nelle ultime sei edizioni, quelle dopo la riforma di Platini. A domani. Grazie di tutti, di tutto, e una buona estate a tutti.